E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, di nuovo ospiti in studio, questa volta è venuto a trovarci il rappresentante di una band di Udine che stasera ci presenterà il disco. A te la presentazione. Ciao a tutti, sono Nicola dei Jar of Bones, una band di Udine, una rock band, assolutamente non rock come il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Con Nicola un salto negli anni 70 tra rock inglese e hard rock americano. Prima canzone ascoltata era di Free, da disco Free Live del 1972 con il classico Mr. Big. Nicola, quando si parla di hard rock i Free non sono spesso citati, però meriterebbero maggiore attenzione, che ne dici? Beh, dico che come sempre i migliori gruppi non sono mai citati. Sicuramente. I Jar of Bones sono assieme dal 2004, un assunto delle tante vostre esperienze. Beh, le nostre esperienze sono prevalentemente live. Dal 2004 a oggi, oltre ad aver cambiato line-up, ricordo che abbiamo cambiato chitarrista e bassista, abbiamo girato un po' per tutta l'Italia, oltre confine siamo stati in Slovenia, Austria, e abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare la vera esperienza live, la vera esperienza rock live in Italia, e ahimè, questa è una nota dolente, purtroppo. Quella sì. Si continua con gli Who. Nel 1970, dopo i loro trascorsi beat, la band inizia ad alzare decisamente i volumi degli amplificatori. All'università di Leeds registrano un album live che è la testimonianza dei loro potenti concerti d'epoca. Da Live at Leeds, il brano Heaven and Hell. We'll be right back. Sono passati 40 anni da questo disco, ma la carica che esprime rimane intatta. Che ne dici, Nicola? Beh, sono senza parole. Sono senza parole perché gli Who, anche per il nostro gruppo, sono stati veramente le fondamenta. E come ti dicevo, tuttora, quando sento My Generation, io ho ancora l'istinto del pogo. In qualsiasi posto io sia, l'istinto del pogo c'è sempre. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e cosa ne pensa il vostro pubblico? Ma i live sono andati particolarmente bene fino ad ora. Dal locale con 5 persone al locale con 300-400 persone è stato sempre una bellissima esperienza. Non chiedermi perché, ma abbiamo notato che il pubblico è, come diciamo sempre, è il sesto Jar of Bones. Noi la viviamo veramente col cuore e vediamo che loro stessi, anche se è la prima volta che ci conoscono, la vivono col cuore. E anzi, ne approfitto per ringraziare tutte le persone che finora ci hanno visto e invito tutti quelli che ancora non l'hanno fatto a venire a sentirci appena posso. Per chiudere questa parte ci affidiamo ai Ten Years After, lo storico combo di Alvin Lee live at Fillmore East di New York nel 1970 con la canzone Working on the Road. Noi ci ritroviamo dopo gli spot per la seconda parte. Cause I have trouble, I can tell, don't you know, babe.